e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Tempo, comunque vadano le cose, lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già tempo andato. C'è una scadenza molto importante di cui vi parlerà Deborah tra pochissimo tempo, potrei dire ultima chiamata. Fare orecchie da mercante potrebbe costarci molto caro, per questo oggi a Cuore Denari ci occupiamo, oltre che dei denari, anche del vostro orecchio, meglio del vostro udito, perché non abbiate scuse. Allora vi faccio subito un test che ci piace molto, Deborah, lo faccio anche a te. Stammi pronta, attenta. Sono pronta, guarda, sono già con le cuffie addosso. Bravo. Ci siamo, Carmelo? Via. Mi sta guardando, perfetto. Sentite qualcosa di simile a questo? Oppure avvertite una specie di soffio, sai? Sentiamo. O un suono acuto, pensate a un fischio, pensate al bollitore di casa vostra al mattino. O invece avvertite come un, li chiamano rumore bianco, un rumore di sottofondo. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde che è già a vostra disposizione. Se avete avvertito, vi è familiare uno di questi suoni, chiamateci subito. Prestate orecchio invece anche a questo termine, un termine in inglese con il quale però da qualche tempo abbiamo imparato a prendere confidenza. Voluntary disclosure, ne parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Il nome è in inglese, ma la procedura è tutta italiana e permette di far emergere le violazioni fiscali di chi ha detenuto o detiene capitali all'estero e vuole sistemare la propria situazione. La scadenza per aderire, lo ricorderete, era fissata al 30 settembre, ma c'è una proroga, quindi è molto importante questa volta per chi è interessato non perdere l'opportunità. La nuova data da segnarsi è il 30 novembre. Il Sole 24 Ore approfondisce questo argomento con un instant book che è allegato al quotidiano in edicola dall'8 ottobre. A partire dal 9 ottobre sulle pagine del Sole 24 Ore di questo tema si parlerà con quattro puntate quotidiane di approfondimento. Oggi però c'è Cuore e Denari, 800 24 00 24 per tutte le novità legate alla proroga e per tutto quello che bisogna sapere per far emergere le violazioni fiscali di chi detiene capitali all'estero. Li avete riconosciuti? È tutti in fila, quasi come un ritornello. Sono i suoni che vi ho proposto in apertura. Se vi sono familiari, più che familiari, intimi, se qualche volta di frequente vi tengono compagnia e se vi infastidiscono, restate con noi perché oggi abbiamo buone notizie per voi. 800 24 00 24, iniziate subito a prenotare i vostri interventi di fischi, ronzii, soffi che disturbano la vita di molte persone, si chiamano acufeni. Ne parleremo oggi nel corso di questa puntata col professor Giorgio Guidetti, responsabile del Vertigo Center presso il Poliambulatorio Chirurgico Modenese. Che è tornato a trovarci, professor Guidetti, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Professore, allora, può avere suoni diversi, parliamo dell'acufene, ma che cos'è? In modo che diamo anche una definizione, perché poi arrivano a metà, no, gli sms, ma che cos'è l'acufene? Possiamo definirlo un suono, un fischio, un ruscelletto, un... Professore. Qualsiasi rumore che noi avvertiamo nella testa, proveniente o meno dall'orecchio, come sensazione, si chiama acufene. Ce ne sono di due tipi, quelli che sentiamo solo noi e quelli invece che possono sentire anche quelli che ci sono vicini. È assolutamente raro quest'ultimo, però esistono anche quelli in realtà. Quindi io mi avvicino a, magari a Deborah, e sento il fischio come se fossi un bollitore? Esattamente, anche se la domanda che fanno tutti i pazienti che soffrono di acufeni è: ma non lo senti anche tu perché è così forte nella loro testa che certo, immaginano che qualcun altro lo possa sentire. Sono veramente casi rari quelli in cui riusciamo a sentirli anche noi, sono legati a alcune patologie particolarissime e rare. Cioè si riconosce quello patologico, no, sì. Perché c'è anche quello quando ti fischiano le orecchie che si dice mi che sta pensando qualcuno, no, no, invece non è se quello. Ti prude il naso arrivano i soldi. Ah ecco, qua non prude mai niente. C'è una cosa da dire, che siccome, ecco, questa è la saggezza popolare, no? Sì. Dice guarda che c'è qualcuno che ti pensa, questo significa che era un, come dire, un sintomo con conosciutissimo da sempre e che solo raramente corrisponde a un problema veramente grave, tant'è vero che veniva sottovalutato scherzandoci sopra con qualcuno ti pensa. Questa certo. È una cosa da dire subito. Allora, professor Guidetti, diciamo però, cerchiamo di capire perché l'orecchio si mette a suonare. È un modo che ha per lamentarsi, per segnalare che qualcosa non funziona dov'era? Possiamo ad esempio paragonare il suono come a una spia, come facciamo con il dolore? Quindi il ginocchio duole, l'orecchio suona e fischia. Esattamente, è un segnale d'allarme, diciamo così, che i circuiti dell'udito nel loro complesso spediscono quando c'è dispersione di corrente o difetto di qualche tipo lungo questo percorso, e quindi rappresenta un segnale d'allarme, c'è qualcosa che non va. Professor Guidetti, in diverse occasioni quando abbiamo parlato di udito, della salute del nostro udito, spesso molti dei suoi colleghi hanno sottolineato che l'acufene è un segno chiaro di un disturbo dell'udito, e cioè che l'udito cala e quindi arriva l'acufene. Sempre così o ci possono essere anche altre ragioni? Beh, questo è vero in assoluto, cioè quando c'è un problema nei circuiti dell'udito di solito c'è anche l'acufene. Sì. È anche vero che ci può essere un'acufene senza che ci sia un calo dell'udito, perché i circuiti dell'udito sono poi piuttosto complessi. Per esempio all'interno del cosiddetto orecchio medio, dove ci sono le catene degli ossicini, l'incudine, la staffa, il martello, che è in comunicazione Ne viene un po' da ridere a raccontarli così, perché c'è no? L'incudine, la staffa e il martello, Ale, siamo pronti. Mi scusi, l'ho interrotta, quindi dell'orecchio interno? Sì, ecco, nell'orecchio medio. Quando c'è questa struttura è collegata al naso attraverso la famosa tuba di Eustachio, quella che si chiude quando andiamo in montagna. Ecco, per esempio, questo sistema meccanico, che è un amplificatore del suono quando arriva nell'orecchio, questo sistema è fatto di muscoli, articolazioni, e quindi se per esempio c'è un problema muscolare riflesso, prendiamo i classici soggetti che hanno un problema di masticazione o di occlusione, o quelli che hanno l'artrosi, per una via riflessa questi muscoletti possono andare in contrazione e danno in qualche modo anche loro acufeni, certo, che non sono legati quasi mai a un vero calo dell'udito, ecco. Tra poco commenteremo insieme a un neurologo che voi conoscete bene, il professor Piero Barbanti, neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana, una ricerca molto interessante che sottolinea delle analogie tra l'acufene e il dolore. Ma prima andiamo subito ai nostri ascoltatori, perché li abbiamo invitati a chiamarci. Oggi vogliamo dare tantissime risposte, indicazioni, quindi forza 800240024. Diamo il benvenuto a Maria Luisa, che ci chiama dalla provincia di Monza, Brianza. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Sì, Maria Luisa, non la sentiamo bene, ci sta facendo fare anche lei un test dell'udito, parli forte e chiaro, perché sennò dobbiamo andare tutti dal professor Guidetti. Buongiorno, okay. Volevo dire il mio problema. Io sono circa 2 mesi che soffro di acufene. Sì. All'inizio, quando è un fischio il mio, io spegnevo tutto, spegnevo televisione, spegnevo, dicevo, ma no, impossibile, questo rumore sembra un fischio, non so, di qualcosa. E invece, andando avanti col tempo, è rimasto, anzi, tende alla sera, tende a peggiorare. Sì. Premetto che io 3-4 mesi fa avevo già fatto tutte le visite dell'orecchio, così, per una depressione, così, mi avevano fatto le visite, tutto, e l'udito è normale, tutto normale. Volevo chiedere certo. Ecco, io siccome sono in cura per la depressione, prendo delle pastiglie, e il psichiatra mi aveva detto che può essere, ma non è sicuro, che può prevenire da queste pastiglie. Potrebbe essere un effetto collaterale del farmaco, ha citato anche la depressione. Professor Guidetti, lei naturalmente ha registrato tutto, noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi ritorniamo per sottolineare anche l'aspetto emotivo di questo disturbo, 800240024, che ha molto a che vedere anche con il dolore. Ne parliamo tra poco insieme anche al professor Piero Barbanti, che salutiamo, che è già in linea con noi. Tra poco. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta e denari. Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il panico. Allora sì, ci vuole orecchio, ma vorremmo che almeno che il nostro orecchio funzionasse bene, non fischiasse come un bollitore. Professor Guidetti, prima delle informazioni sul traffico, la nostra amica ci raccontava di questo suo acufene che si presenta come un fischio e voleva sapere se ci poteva essere una relazione con un farmaco che sta prendendo per curare una depressione. Che ci sia un legame tra l'emotività e il manifestarsi di questo disturbo è ormai dimostrato e provato. Ma professor Guidetti, quindi che cosa si sente di consigliare alla nostra amica? Beh, anzitutto il problema è appunto quello che abbiamo detto prima, cioè esiste un legame stretto fra i livelli di ansia e depressione e la percezione del rumore, ma anche la stanchezza, cioè più uno è stanco, più uno è teso, più uno è depresso, più è affaticato, più è facile che senta il rumore, ecco perché lei lo avverte soprattutto di sera. Purtroppo il discorso dei farmaci è chiaro che è un discorso importante. Bisogna vedere di volta in volta l'impatto del farmaco stesso, per esempio quelli ad azione sedativa di solito riducono il rumore, quelli antidepressivi che danno un po' di carica, ma è più facile che ne aumentino, questo è un dato di fatto. Ecco, già questa indicazione ci aiuta a fare chiarezza, ma l'avevamo anticipato, vogliamo parlare con voi di una ricerca che conferma che tra acufeni e dolore cronico ci siano delle relazioni strette, non solo perché alla lunga possono diventare insopportabili e difficili da trattare, ma pare che le due condizioni condividano le stesse basi neurologiche, quanto emerge da uno studio della Georgetown University e dell'Università di Monaco. E in linea con noi, come anticipato, il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma, che ci aiuta a leggere la notizia. Professor Barbanti, buongiorno e bentornato. Buongiorno anche a lei. Grazie, buongiorno Nicoletta, bentrovata e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, sono vite parallele come quelle di Plutarco, quelle dell'acufene e del dolore cronico, perché c'era già da sospettare, perché circa il 20% degli adulti della seconda fascia, diciamo, dell'età adulta ne risulta affetto. Che cosa hanno fatto questi ricercatori tedeschi che studiano a Monaco e all'Università degli Stati Uniti? Ne hanno fatto l'analisi grammaticale e logica, cioè che vie percorrono queste due sgradevolissime sensazioni. Immaginiamo di essere in una redazione di un giornale. Prima cosa, c'è non facciamo nessuna fatica, professor Barbanti. Ecco, noi bene. Qua. Ecco. Ecco, arriva l'acufene, arriva il dolore. La prima cosa c'è posta per te, ci pensa il talamo a dire che è arrivato qualcosa. Il secondo step, di che cosa si tratta? La corteccia cerebrale decodifica l'un sintomo e l'altro sintomo. Le prime reazioni a caldo, l'insula, l'amigdala incominciano a farci sudare o preoccupare o meno, ma la via finale è comune, cioè la valutazione soggettiva e affettiva di questo tinnito, di questo fruscio o del dolore viene fatta dalla stessa zona, questa è la scoperta, è quasi impronunciabile, ma la pronuncerò perché è la corteccia fronto-orbitale ed è una zona molto importante che i ricercatori hanno dimostrato nel corso del tempo si assottiglia nella sua componente grigia. Sapete, sostanza grigia e sostanza bianca. Quindi, insomma, che tu sia partito con gli acufeni, che tu sia partito con dei dolori, a lungo andare la stazione finale, quella della valutazione soggettiva che dice, beh, adesso camma fa con questa notizia, ebbene, risulta un po' danneggiata e questo può spiegare alcune cose, sia cliniche, sia prospettive di terapia. Quindi per rassicurare, mandare un messaggio agli ascoltatori che si confrontano o con un dolore cronico o con l'acufene, stiamo parlando di dolori però che sono circoscritti, no, alla zona della testa, più frequentemente. Testa. Professor Barbanti, che cosa? I consigli sono pratici, sono di due tipi. Primo, fate fatica a spiegare al medico se è un ronzio che vi fa male o se avete un mal di testa con una specie di testa che suona o rumori strani in testa. Non vi state inventando niente, non siete nevrotici, vi ha sdoganato un lavoro scientifico estremamente prestigioso. Vi rimanda esattamente su una zona del cervello un po' usurata, ma la seconda notizia che esce fuori è che quella zona chiamata orbito frontale manda degli effluvi melliflui verso la periferia a base di dopamina e serotonina, su quei neurotrasmettitori si può lavorare chimicamente per cercare faticosamente, perché i disturbi sono molto disabilitanti e tendenzialmente cronici, ma per scioglierli, per fare in modo che la testa sia meno rumorosa e meno dolente. Questa è musica per le nostre orecchie, professor Barbanti, grazie per essere stato con noi, le auguro un'ottima giornata. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Professor Guidetti, torniamo a noi. Abbiamo detto che abbiamo sottolineato che c'è anche una componente emotiva. Lei ha detto che quando siamo stanchi, preoccupati, stressati, tendiamo a ingigantire tutto e sentiamo anche di più l'acufene. È un po' come se i nostri sensi si allertassero e si affinassero. E ci sono infatti dei nuovi approcci che, proprio basandosi su sedute di terapia cognitivo-comportamentale, aiutano il paziente a distogliere un po' il pensiero e quindi a spegnere un po' l'acufene. Ecco, lo fate voi anche nel suo centro, è vero? Sì, sì, certamente. Naturalmente è un esempio di collaborazione stretta fra lo psicologo e l'esperto di orecchio, audiologo Torino che sia, certo. E sono delle sedute di psicoterapia cognitivo-comportamentale, quindi è questa proprio la specifica? Sì, esattamente. Si tratta di fare delle sedute per inquadrare il problema, poi cercare la soluzione migliore, che può essere o esercizi particolari o comportamenti particolari o al limite anche la terapia farmacologica associata. È qualcosa che assomiglia molto poi all'integrazione fra corpo e psiche, di cui abbiamo parlato un attimo fa con il collega neurologo. Quindi, professor Barbanti, per le persone, sono tante che ci stanno scrivendo, che avvertono questo disturbo, possiamo mandare dei messaggi un po' rassicuranti? Innanzitutto bisogna fare una diagnosi, lei dopo le informazioni sul traffico ci dirà quali sono gli esami da fare, pochi ma buoni dobbiamo dire in questo momento, soprattutto per arrivare a capire la causa di questo suono, torrentello, fischio, chiamatelo come volete. Poi ci sono delle strategie terapeutiche che ci permettono di o attutirlo o eliminarlo. Ci sentiamo subito dopo, se volete saperne di più, dopo il giornale radio, 800 24 00 24 per fischi, ronzie e quant'altro. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Cupo per antonomasia, ma intanto è portatore in questo caso di una buona notizia, perché è stato posticipato al 30 novembre il termine per chi vuole mettersi in regola con la voluntary disclosure, la procedura che permette di far emergere piccole e grandi violazioni fiscali. Noi tra poco torniamo a parlarvi a cuore denari proprio di queste situazioni, che in realtà spesso si verificano in totale buona fede. Avete fatto un investimento all'estero, avete comprato una casa in un paese che vi piaceva e non avete ben capito come disciplinare questa situazione con il fisco italiano. Dovevate farlo entro il 30 settembre, siete un po' in ritardo, il governo ha prorogato il termine. Allora 800 24 00 24, iniziate a prenotare i vostri interventi e le vostre domande a tra pochissimo. Avverti il disturbo solo da un orecchio o da entrambi? Ti sembra che sia in sincronia con il battito cardiaco? Aumenta quando apri e chiudi la bocca o se digrigni i denti? È costante o intermittente? Con il silenzio aumenta o diminuisce? I suoni acuti ti danno fastidio? Quando sei in un ambiente rumoroso, il disturbo diminuisce o peggiora? Quando sei a letto, l'acufene ti lascia dormire o ti impedisce di addormentarti? Se hai il collo dolorante, i fischi sono più intensi? Una scheda che ci aiuta a riprendere il tema della prima parte di Cuore Denari. Parliamo di acufeni. In linea con noi abbiamo il professor Giorgio Guidetti, a cui oggi chiederemo anche di raccontarci di quali sono gli esami che ci permettono di arrivare ad una diagnosi, a capire la causa di questo acufene e soprattutto quali sono attualmente le strategie per attenuarlo e eliminarlo. Professor Guidetti, ma prima vorrei chiederle di aiutarci perché ci sono degli acufeni che non hanno nulla a che fare con l'orecchio, meglio, non sono sintomi di problemi all'orecchio. Allora mi piacerebbe sapere se hanno delle caratteristiche particolari. In altre parole, possiamo capire anche da soli se il nostro sibilo dipende dall'orecchio o, che so, dalla pressione alta, dalla cervicale? Diciamo che non è mica la cosa più facile del mondo. Però possiamo provarci? Possiamo provarci, per esempio, se peggiora di molto quando siamo molto stanchi, se peggiora di molto quando abbiamo male al collo, se peggiora quando di notte abbiamo digrignato i denti e ci svegliamo con la sensazione di muscoli contratti, è chiaro che potrebbe essere anche, ecco, di altra natura, per esempio legata alla tensione muscolare, ai disturbi della tuba di Eustachio. Certo. Se peggiora, per esempio, si scatena con una sensazione di orecchio chiuso, potrebbe essere un fenomeno infiammatorio nella tuba di Eustachio. Sono piccole cose che all'inizio aiutano così a orientarsi, però è buona norma, quando c'è un acufene, almeno all'inizio fare uno screening preciso e fatto bene della funzione uditiva. Porta via 10 minuti, un quarto d'ora in un centro specializzato, e consente di avere le idee molto, molto più chiare sui passi successivi. Quindi questo è il primo passo per arrivare ad una diagnosi. Quali sono gli altri esami, professor Guidetti? Ci sono tanti ascoltatori che ci scrivono, purtroppo chi li ha ci dovrà convivere. Ci sono invece, no, delle opportunità per attenuare un po' questo fastidio che è molto invalidante. Guardi, la causa principale del fatto che non si riesce qualche volta a guarire gli acufeni è proprio in quell'atteggiamento che per anni ha caratterizzato la classe medica, che non era in grado, non aveva voglia di affrontare il problema e quindi diceva ai pazienti se lo deve tenere. In questo modo il sintomo si cronicizza, dopo non basta più curare semplicemente la causa, per esempio una malattia dell'orecchio, ma bisogna andare a lavorare anche sulla componente della memorizzazione di questo segnale d'allarme, e quindi in poche parole si va a lavorare su quei circuiti di cui abbiamo parlato prima, che sono del cervello, e lì la cosa diventa molto più complessa. Quindi prima si comincia a inquadrare il problema, prima lo si affronta, più è facile risolvere, e non è vero che per tutta la vita uno se lo dovrà portare dietro. Quindi non bisogna aspettare tempo, perché sennò l'acufene lascia un'impronta che poi nel nostro cervello, in questi circuiti, che è difficile poi da affrontare e da cancellare. Per quanto riguarda, professor Guidetti, abbiamo ancora proprio giusto un minuto. Naturalmente chiediamo ai nostri ascoltatori di scriverci a cuoredenari@radio24.it. Tante le strategie che vengono messe a disposizione, dai farmaci al suono per combattere il suono, alla terapia con i suoni. Al momento quali sono quelle che anche in base alla letteratura, ai dati, sembrano più promettenti e danno migliori risultati? Negli ultimi 15-20 anni abbiamo riorganizzato completamente la strategia terapeutica. Adesso cerchiamo di fare due cose: primo, identificare la causa del danno e cercare di rimuoverla. Esempio, se hai la pressione alta, curare la pressione, sembra una sciocchezza, ma in realtà è già un passo avanti notevole. Secondo punto, dobbiamo cercare di antagonizzare questo rumore, allora si usano i sistemi di mascheramento, si usano gli esercizi, per esempio, delle tecniche cosiddette di EMDR, che sono tecniche che usano gli psicologi per rimuovere, diciamo, dalla memoria l'attenzione specifica verso il rumore. E poi, per esempio, ci sono anche dei sistemi un po' più complicati, naturalmente di psicoterapia, ci sono i farmaci attivi sui meccanismi di rilassamento muscolare, di eliminazione del rapporto con l'ansia. E poi c'è stato usato anche, per esempio, un sistema laser, un meccanismo laser molto banale, portatile, che serve per incrementare, nei casi in cui ci sia una malattia dell'orecchio, per incrementare l'apporto ematico, per migliorare diciamo il metabolismo del labirinto della coclea, dell'orecchio interno, sostanzialmente, quando c'è una malattia. Naturalmente tutto questo varia da soggetto a soggetto. Professor Guidetti, lo specialista di riferimento, e con questa è l'ultima domanda, la saluto, per affrontare l'acufene, è l'otorino, ma lei ad esempio è un otoneurologo. Dove si trovano questi centri, a chi bisogna rivolgersi? Questa è una domanda ricorrente dei nostri ascoltatori al 349-238-6666. Professor Guidetti, è sufficiente un otorino o bisogna cercare un otorino specializzato in questo problema? Quindi un otoneurologo, mi sembra, no? Sì, dunque in realtà l'otorino dovrebbe avere una preparazione di base, ma insomma non è sempre vero, perché l'otorino è una specialità molto vasta. Sì. Naturalmente lo specialista ideale è l'audiologo, cioè quello che si è specializzato sui disturbi dell'udito, o l'otoneurologo, appunto, che fa questo tipo di lavoro. In genere sono centri dentro ai grandi ospedali. Naturalmente esistono anche centri privati in grado di affrontare questa problematica, ma ecco, non è che ogni ospedale ha un centro di audiologia, certo. No, bisogna cercare i centri di audiologia. E soprattutto mi sembra che il messaggio di oggi, professor Guidetti, non bisogna aspettare e non rassegniamoci, qualcosa si può fare se si interviene, certo, precocemente. Ma non essere neanche pessimisti, perché all'inizio il fatto che sia comparso un acufene potrebbe essere davvero solo qualcuno che ci pensa, non è mica detto che sia una malattia grave. Mai preoccuparsi troppo, se no si incrementa davvero l'acufene, però neanche sottovalutarlo. Certo. Professor Guidetti, la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo una buonissima giornata e speriamo di risentirci presto. Grazie. Arrivederci. E allora adesso invece le vostre orecchie dovete prestarcele per ascoltare attentamente tutti i chiarimenti che vi diamo questa mattina su un altro argomento. Allora, perché bisogna prestare orecchio? Perché intanto l'argomento, solamente per come si chiama, è molto difficile, è un po' ostile ai più. E invece è un po' più, come dire, un termine entrato nella confidenza quotidiana, se ci sono delle persone che naturalmente sono direttamente interessate a disciplinare bene la loro questione con il fisco. Allora, di che cosa parliamo questa mattina? Di voluntary disclosure, un termine in inglese, ma nella sostanza si tratta di quella procedura tutta italiana che permette di far emergere le violazioni fiscali di chi ha detenuto o detiene capitali all'estero e quindi vuole regolarizzare queste posizioni. Ricorderete che ne abbiamo parlato proprio un mese fa, ne abbiamo parlato altre volte nel corso degli ultimi mesi, però un mese fa ci siamo ritornati perché la procedura stava entrando nel vivo, vista la scadenza inizialmente prefissata 30 settembre per l'attivazione della collaborazione volontaria per sanare il rientro dei capitali detenuti all'estero, versando naturalmente delle sanzioni. Poi, raccogliendo le enormi perplessità dei professionisti che stanno seguendo i contribuenti alle prese con questa regolarizzazione, il governo ha varato un decreto con la proroga dei termini al 30 novembre. Poi nei giorni scorsi si è anche appreso che al 1 ottobre erano circa 60.000 le richieste di adesioni che erano pervenute all'Agenzia delle Entrate, e questo dato è stato fornito proprio dalla direttrice Rossella Orlandi, quindi abbiamo anche delle notizie di cronaca da commentare, ma soprattutto stamattina cercheremo di capire a cosa serve questo tempo aggiuntivo rilasciato così dal governo. 800 24 00 24, potete tempestare di domande stamattina il nostro avvocato Fabrizio Vedana, vice direttore generale di Unione Fiduciaria, che salutiamo, benvenuto, ben ritrovato anzi. Buongiorno. Buongiorno. L'ultima volta l'avevamo tradito con un suo collega che però è anche un suo amico, Fabio Guffanti. Bravissimo. È vero, è stato veramente molto bravo, quindi oggi lei si deve assolutamente superare in chiarezza, ma per l'avvocato Vedana non è... Praticamente li metti in competizione. Certo, mi sono un po' diabolica. No, perché su questo argomento veramente se non spieghi tutto l'ABC è complicato. Devo dire che prima di tutto mi ha colpito... No, appena abbiamo lanciato il tema, i primi messaggi che sono arrivati e sono di due donne, e questo chissà che cosa suggerisce, adesso ce lo faremo commentare. Suggerisce che le donne di denari, che è proprio il titolo del libro di Deborah, sono attente, consapevoli e hanno voglia di informarsi. Infatti. E allora io saluto Anna da Brescia, intanto prenda appunti avvocato Vedana su queste domande e poi rispondiamo nel corso della trasmissione. Anna da Brescia chiede: ho una casa in Croazia Croazia. La denuncio nella dichiarazione dei redditi, sono a posto o devo fare altro? Maria da Vicenza invece, e da questa domanda parto proprio con l'ABC della voluntary disclosure, chiede: ma per capitali all'estero si intendono soldi prodotti all'estero o anche soldi spostati con bonifici bancari da stipendi già tassati alla fonte in Italia? Secondo me sempre soldi all'estero sono. Come li mettiamo? Li mettiamo. Da dove li spostiamo? Li spostiamo sempre. Quelli sono. Fuori dall'Italia stanno. Avvocato Vedana, partiamo da qua? Bene, partiamo da qua. Il voluntary logo, giusto? Dopo l'audiologo ci vuole. Allora, i capitali all'estero sono tali tutti i capitali che prodotti sono in Italia o all'estero, come tali, se portati all'estero, quelli diciamo oggetto anche di normale pagamento di imposte, perché oggetto magari di uno stipendio, può essere capitato negli anni passati con una certa frequenza, timore dell'Italia, anni 2010-2011, lo spread che continuava a salire, e tanti molti conti italiani aperti in Svizzera. Hanno deciso di svuotare i conti che avevano in Italia e portare questi soldi all'estero, quindi soldi che erano già noti al fisco italiano, sui quali probabilmente avevano già pagato delle tasse perché provenivano da attività lavorative o imprenditoriali comunque note al fisco. Ebbene, se hanno portati all'estero e non hanno assolto a degli obblighi dichiarativi che incombono su tutti coloro che hanno delle attività oltre confine, cioè in particolare il famigerato compilazione del quadro RW e gli altri quadri previsti per chi detiene attività all'estero, devono sanare questa irregolarità fiscale aderendo a questa voluntary disclosure. Allora, la normativa di riferimento per tutti gli appassionati dei termini di legge, ci sono sempre all'ascolto, è la legge 15 dicembre del 2014, la numero 186, ed è proprio quella norma che reca disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Allora, dicevamo, avvocato Vedana, perché abbiamo rifatto questa trasmissione? Intanto perché c'è l'Instant Book, che porta anche la sua firma, che esce con il Sole 24 Ore, ma soprattutto perché il governo nei giorni scorsi ha deciso di prorogare alcuni termini portandoli alla fine dell'anno, in realtà al 30 novembre, con poi un'ulteriore coda, un ulteriore appendice entro la fine dell'anno. Intanto, a che cosa serve questo tempo aggiuntivo? Beh, il tempo aggiuntivo, che appunto è stato varato con il decreto legge 153 del 30 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, quindi il 1 di ottobre, e dal 1 di ottobre vigente, sposta la data precedentemente fissata al 30 di settembre 2015 per la presentazione di richieste di adesione al 30 novembre 2015, quindi 2 mesi di tempo in più. Mm-hmm. E allunga ulteriormente al 30 dicembre 2015 il precedente termine fissato al 30 di ottobre, entro il quale completare l'istanza con una serie di documenti, relazione descrittiva della voluntary, documentazione allegata, le contabili delle banche estere e via discorrendo. Perché questa proroga molto attesa, molto richiesta da parte dei professionisti, da parte degli intermediari? Perché soltanto nei primi giorni di settembre, il 2 settembre per la precisione, sono entrate in vigore le norme varate dal governo ad agosto, note come norme sulla certezza del diritto, che hanno sostanzialmente chiarito definitivamente i termini di applicazione per gli anni fiscali non ancora diciamo accertati. In particolare hanno ridotto il famoso termine di accertamento da 10 a 5 anni per chi, e molti sono quelli che fanno la voluntary, hanno dei patrimoni in paesi a fiscalità privilegiata come la Svizzera e Monte Carlo. E questo che cosa comportava, mi scusi? Cioè, che prima cosa del 2 settembre comportava che chi aderiva alla voluntary avrebbe dovuto sanare le irregolarità fiscali non per 5 anni, che è il termine ordinario entro il quale l'agenzia può accertare eventuali evasioni di imposte, ma per 10 anni. Questo significa che anche tutte le operazioni precedenti di scudo fiscale, di regolarizzazione, di rientro dei capitali dall'estero, per molti contribuenti erano state opportunità non assolutamente sfruttate, per dirla con un termine gentile, ecco. Esattamente, quindi probabilmente molti di quelli che stanno facendo adesso o hanno fatto la voluntary non hanno sfruttato lo scudo o l'hanno sfruttato solo in parte. Parlavamo prima, avvocato Vedana, di questa fotografia scattata proprio pochi giorni fa da Rossella Orlandi, che ha parlato di queste 60.000 regolarizzazioni, appunto. La cifra si riferisce al 1° ottobre di quest'anno, quindi magari poi nel frattempo ne sono arrivate altre. Quali sono le situazioni tipiche, le più diffuse, che state sanando anche dal punto di vista dell'assistenza professionale? Ci fa qualche esempio per far capire a tutti quali sono i soggetti interessati a questa delicata operazione? Che tipo di capitali stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di diverse tipologie di capitali. Il grande popolo dei frontalieri o ex frontalieri in primo luogo, quindi di coloro che hanno lavorato o lavorano nella vicina Confederazione Elvetica e hanno aperto negli anni passati un conto corrente sul quale venivano accreditati gli stipendi o che hanno utilizzato queste disponibilità per comprare la casetta di vacanza. Sono tutte situazioni che dovrebbero essere oggetto di una voluntary, soprattutto per gli ex frontalieri che non hanno adempiuto ai loro obblighi di compilazione del quadro RW. Il decreto legge 153 approvato dal governo 30 settembre va incontro ai frontalieri, precisando in particolare che la regolarizzazione di una serie di violazioni connesse in particolare alle pensioni percepite dai frontalieri possono accreditate godere, in Italia o all'estero accreditate all'estero possono essere oggetto di un trattamento particolare. Viene applicata un'aliquota forfettaria del 5%, quindi qualcosa di più simile allo scudo fiscale di non... Ma il governo ci ha dovuto pensare il 30 settembre alla situazione dei lavoratori transfrontalieri, mi viene da dire, avvocato Vedana, o sono io proprio... aspettavo che tu avresti che sono incattiva... una... no, cioè, vero, cioè, però, non è che proprio dall'oggi al domani abbiamo una pletora di persone che lavorano in Svizzera o in un altro paese che magari no? Come mai? Beh, probabilmente era stato in parte sottovalutato questo aspetto. Sicuramente i patrimoni più significativi non sono quelli dei frontalieri, ma sono quelli del popolo dei non frontalieri, Bebora. Quindi, però probabilmente per senso di responsabilità forse sono gli unici contribuenti che vogliono mettersi in regola. Quelli che hanno patrimoni particolarmente significativi, in realtà qualche altra scappatoia continuano a cercarla. Allora, 800 24 00 24, siccome abbiamo tanti ascoltatori e tante domande, direi che per dare loro la giusta dignità mi tolgo dalle scatole la borsa, anche perché è evocata da tantissimi ascoltatori che si stanno lamentando. Sì, molti che alle 10:30 non abbiamo fatto. Come è possibile? Non c'è più la borsa. La borsa c'è, guardate, va pure benino stamattina di nuovo, per cui buone notizie. Poi tra poco tutte le domande all'avvocato Vedana su questa operazione di rientro dei capitali. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da Uliveto. Ti aiuta a digerire. Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Qua non sfugge niente. Sono molto attenti. Ma noi le abbiamo messe a prova. Brava, potremmo regalargli un libro. Rapporto euro-dollaro a 1,12, non a 1,20. Bravi, che mi avete subito pizzicata nell'errore. Insomma, noi qua candidamente lo confessiamo, come stanno confessando tutti coloro che stanno aderendo alla voluntary disclosure. C'è tempo fino al 30 novembre. Il governo ha riaperto i termini. Stamattina ne stiamo parlando con l'avvocato Fabrizio Vedana. Grazie anche a tutti i vostri commenti che stanno arrivando, anzi alle richieste di aiuto che stanno arrivando all'800 24 00 24, ma anche al 349 238 6666. Tra l'altro commentavamo a microfoni spenti con Nicoletta e con l'avvocato Vedana quello che dice Alberto, chiamatelo con il suo nome, condono. Allora, avvocato, magari vale la pena forse chiarire questa che è anche una curiosità per molti ascoltatori: che differenza c'è fra questa operazione e le ultime tre delle quali avevamo anche parlato in passato nei nostri programmi, i tre scudi fiscali che peraltro sono stati tutti portati avanti? Adesso non ha nessuna malizia questo commento, no, solamente la cronistoria del governo. Esatto, tutti erano sotto la firma del governo Berlusconi, del ministro Tremonti. Il primo è stato tra il 2001 e il 2002, il secondo nel 2003, il terzo tra il 2009 e il 2010. Peraltro questo terzo fece emergere qualcosa come 105 miliardi di euro, generando un gettito fiscale di oltre 5,5 miliardi. Ma che differenza fra uno scudo fiscale e questa operazione, avvocato Vedana, che so che a lei non piace parlare di condono? Alberto ha ragione a metà. È un condono al più sul piano penale, la voluntary, nella misura in cui chi aderisce non si vedrà sostanzialmente più perseguibile e perseguito dalle procure della Repubblica per i reati fiscali che eventualmente avesse commesso non pagando imposte oltre un certo limite, oltre le soglie di rilevanza penale. Non ha ragione Alberto nel considerare la voluntary come uno scudo fiscale, perché rispetto allo scudo fiscale la voluntary chiede a chi aderisce di pagare tutte le imposte che non ha pagato relativamente agli anni ancora accertabili. Quindi alla luce del decreto sulla certezza del diritto, non nessuna aliquota agevolata in questo caso, no, ma una dalla fiscalità piena, fiscalità di piena, metterti in regola, esattamente, pagando che comunque sanzioni in misura ridotta. Ci fa un esempio di una sanzione che si paga su un rientro, diciamo, di importo? Non lo so, faccia lei un esempio che ci aiuti a capire. La classica situazione dell'imprenditore che ha comprato la casa all'estero senza la volontà e non l'ha mai dichiarata nella sua dichiarazione dei redditi, in particolare nel quadro RW. Cosa che, per rispondere anche all'ascoltatrice di prima, della Croazia. Lei ha dichiarato la casa nella sua dichiarazione dei redditi, può tendenzialmente essere serena, ovviamente, purché questa dichiarazione sia stata fatta per tutti gli anni in cui avrebbe dovuto essere fatta, non solo l'ultimo anno, ma anche gli anni precedenti. Ecco, quindi non è che se tu ti sei ricordato di farla l'ultimo anno, nell'ultima dichiarazione dei redditi, magari questa casa l'hai comprata 5 anni fa, in questo caso questa fase di voluntary disclosure ti consente di regolarizzare quei 4 anni precedenti? Esattamente, con quali costi? Con quali costi? Molto ridotti. Nel caso della casa, specifico, se la casa di vacanza, quindi non affittata, che non produce un reddito, non ci saranno particolari imposte sul reddito, tranne l'IVIE, che all'estero è stata introdotta di IMU con l'allora governo Monti, e pagare le sanzioni sulla mancata compilazione dell'RV in una misura molto ridotta, lo 0,50 invece che il 3% per anno. Sul valore di che cosa? Sul valore della transazione immobiliare, della compravendita, del catasto europeo. È uno dei temi, cara Deborah, il tema del valore dell'immobile. Ci sono 3 criteri che vengono ad oggi adottati dai professionisti, perché anche su questo l'agenzia nelle varie circolari ha detto e non detto. I criteri possono essere 3. Primo criterio, dopo si lamentano che bisogna fare un condono l'anno, ma ci credo, ma fai una norma chiara per tutti, dopodiché quelli che non si mettono in regola li sanzioni, punto, ma non lo so. Perché vabbè, poi magari adotti un criterio e scopri che andava bene l'altro, infatti, ti devi pagare la multa, adesso scusi, dico multa, lei non mi bacchetti, è una roba. Vabbè, sarà facile parlare da questo microfono, per carità del cielo, non vogliamo certamente stare a Roma a governare, però detto diciamo questo, che chiudiamo i criteri la polemica. Per finire, allora il primo criterio è quello di costo, il secondo criterio è il valore che ha oggi l'immobile, che tendenzialmente è più alto del valore di costo, oppure il terzo criterio, quello che sembra piacere di più all'amministrazione fiscale, è il valore catastale aggiornato secondo aliquote definite con dei decreti ministeriali. Questo terzo valore, che di fatto è quello che viene utilizzato in Italia per i calcoli ai fini IMU e TASI, dovrebbe essere, secondo l'agenzia, anche quello adottato nell'ambito della voluntary disclosure. Ma valore catastale zero. Di che cosa? Per una casa in Croazia, di quale catasto stiamo parlando? Se c'è il catasto nel paese di cui parliamo, se non c'è il catasto, evidentemente restano gli altri 2 criteri. Va da sé che chi vuole pagare un RV, le sanzioni sull'RV più basse, probabilmente utilizzerà il costo storico e non il costo ad oggi dell'immobile, il valore che oggi A discrezione, ci sono ancora degli elementi di discrezionalità. L'importante è che qualunque strada si scelta sia inattaccabile per il contribuente che vuole stare a posto, e qua non ha neanche un riferimento preciso. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Sentirei subito, no, qua mi devi aiutare tu perché abbiamo un francese e non all'ascolto. Sappiamo, Christian, buongiorno. Christian, ci sente? Buongiorno. Allora, l'abbiamo chiamata nel modo giusto, ma lei non si fa sentire. Christian? Sì, eccola, ci sono. Eccola qua, buongiorno. Prego, siamo a sua disposizione. Ecco, io ho fatto la dichiarazione normale, non ho bisogno di nessuno. Christian, la riprendiamo la telefonata perché adesso ormai è abbiamo imparato a pronunciare il suo nome, possiamo chiamarla ancora. Adesso ti porto in Marocco invece, andiamo da Aziz. Eccoci qua, buongiorno. Eccoci a lei. Grazie per avermi chiamato e complimenti per la trasmissione. Grazie. Sentite, allora il mio caso è questo: io da un bel po' che sono diventato cittadino italiano, ero cittadino marocchino, poi diventato cittadino italiano. Ecco, sì. Sono un po' emozionato. In Marocco sono proprietario di un appartamento e un negozio. Sì. Vorrei sapere se adesso con queste regole qua devo dichiararle o no. Grazie Aziz, ottima domanda. Allora Aziz ha una posizione abbastanza particolare, era un cittadino appunto marocchino, adesso stando qua in Italia è riuscito a conquistare la cittadinanza italiana, ma insomma i suoi beni li ha mantenuti là, soprattutto dato il fatto che si tratta di beni immobili. Un negozio, un appartamento deve regolarizzarsi con il fisco italiano? Il nostro ascoltatore può approfittare di questa operazione? Bisogna capire se deve utilizzarla. Diciamo che lo spartiacque è il 2009. Bisogna capire se Aziz è diventato cittadino italiano prima o dopo questa data. Se è diventato prima di questa data, potrebbe dover fare qualcosa, e quindi il suggerimento è di parlarne con il suo professionista, il suo commercialista, quello che gli tiene la contabilità in Italia. Se lo è diventato in un'epoca successiva, probabilmente il problema non ce l'ha, quindi la cosa migliore è parlarne con il suo commercialista, però lo spartiacque è il 2009. Allora, un'altra questione sulla quale vale la pena focalizzarci un attimo, se abbiamo ancora 3 minuti di tempo prima del traffico, un altro aspetto importante, avvocato Vedana. Allora, questa regolarizzazione, per tutti coloro che decidessero naturalmente di farla, va fatta in autonomia. Mi pare di capire che non è necessario avere ricevuto una richiesta di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma bisogna muoversi di propria spontanea volontà. È così? È assolutamente così, anzi è bene non aver ricevuto avvisi di accertamento. Perché lì si aprirebbe un altro tipo di rogna. Se sono stati ricevuti avvisi di accertamento o questionari o peggio ancora avvisi di garanzia dalla Procura della Repubblica, è un altro paio di maniche, le famose cause ostative, quindi non puoi più utilizzare la voluntary. Ovviamente se l'avviso d'accertamento, l'avviso di garanzia si riferiscono ai beni che stai cercando di far rientrare in Italia. Quindi è bene verificare prima di non essere in queste condizioni, perché se si è in queste condizioni bisogna sincerarsi che non ricadano nelle cause ostative. Quindi no avvisi di accertamento, no avvisi di garanzia. Come ci si presenta in agenzia, non di persona, esatto, non fisicamente. Ma agli esiste sportelli. Una procedura telematica. Esattamente, che non può essere utilizzata da chiunque, non dal singolo contribuente, ma attraverso un professionista, commercialista in primis, il ragioniere, lo studio professionale, che utilizza l'applicativo Entratel dell'Agenzia delle Entrate e deve inviare un'istanza completa di una serie di informazioni. Entro i 30 giorni successivi dovrà poi essere completata l'istanza con una relazione di accompagnamento. Per la verità il decreto legge 153 interviene anche su questo aspetto, dando non 30 giorni ma di fatto tempo ai professionisti fino al 30 di dicembre per allegare, quindi dopo l'istanza, la relazione d'accompagnamento, tutte le contabili e i documenti che servono, quindi di fatto anche qua un ulteriore allungamento dei termini al fine di consentire ai professionisti di lavorare al meglio le pratiche, visto che sono spesso e volentieri conteggi non semplici. Assolutamente, e basti riepilogare il caso che ci ha fatto della casa all'estero, per l'appunto non si sa su che tipo di valore applicare questa fiscalità che si deve regolarizzare. 800 24 00 24, perché mi facevi quel gesto? No, volevo del denaro, chiedere quanto costa? Quanto costa, quindi bisogna andare dal professionista e pagare anche una parcella. Immagino che dipenda forse anche un po' dal malloppone che devi regolarizzare, avvocato, perché magari sistemare una proprietà immobiliare all'estero vi richiede un tot di tempo. Molto però meno, se devi risalire al catasto della Croazia e devi fare tutte queste robine qua, diciamo che gli immobili, Deborah, non ridere, ma sono la cosa più semplice da regolarizzare, nonostante quelle perplessità sul valore. Le situazioni più complesse sono quelle dei conti esteri. Tanti italiani che hanno non uno ma tanti conti all'estero, beati loro, devono ricostruire, fare i conteggi con il professionista, non guardando il saldo a fine anno del conto, ma contabile per contabile, quindi l'acquisto e la vendita dei vari titoli, le plusvalenze, le minusvalenze, certo, prodotte. Perché generalmente non è che si tratta di conticini con un po' di contante su questi conti, si tratta di conti su cui si sono fatte delle operazioni, delle transazioni finanziarie, delle operazioni di investimento, quindi si sono generate minusvalenze, plusvalenze. Guardi, avvocato, fatto. Noi non la invidiamo, io e Nicoletta, proprio per assolutamente. Niente. Assolutamente. Allora andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, autostrade. Questa volta ho detto giusto. Sì, hai detto giusto, sì. Come me. Poi ho pareggiato subito il conto con l'euro-dollaro io stamattina. Poi ci sono Antonia e Domenico. Intanto andiamo. Cuore e denari. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla. No, per carità, sul catasto canadese adesso non apriamo la parentesi perché non ci sembra il caso. 800 24 00 24, il numero verde che continua ad essere a vostra disposizione fino alle 11.56 per le vostre domande sulla voluntary disclosure, com'è che la chiama ministro Alfano, ma Mauro Meazza la mattina, insomma, si diverte molto con Alessandro Milan su questo. Dove ti piace di più andare? No, allora, io vorrei andare a Salerno perché c'è Domenico con una bella domanda. E poi comunque, se mettessero dei nomi più semplici, adesso non Alfano dovrebbe impararlo un po' rapidamente, ma sarebbe tutto più mondo globalizzato, no? Cara mia. Comunque, come si chiamano i tuoi esperti per gli acufeni? Allora, perché audiologo stamattina... oppure otoneurologo, però facile, almeno italiano. Però l'otoneurologo stamattina pure un pochino mi ha spiazzata. Detto questo, non si finisce mai di imparare. Allora, andiamo da Domenico. Domenico, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Senta, io le domande erano due veramente. La prima, c'è un ritorno, signorina, c'è un ritorno nel telefono. Sì, vabbè, sempre stiamo facendo delle prove audiometriche per il nostro non sappiamo, dito. Domenico, provi a farle, noi stiamo zitte. Pronto? Sì. Allora, senta, la prima domanda è che praticamente io ho due immobili, se li vendo... Posso dare questi soldi ai miei figli che vivono all'estero senza incorrere in sanzioni? Prima domanda. La seconda? La prima. La seconda, se questi due immobili invece li vendo, no, li trasferisco a loro, cioè glieli dono, glieli vendo a loro. Fa un passaggio di proprietà con le regole italiane. Però le imposte... dove vengono pagati? Loro dove pagherebbero le imposte? Questo perché Domenico e i suoi figli vivono all'estero, lei non ce l'ha detto ma lo vedo scritto dalle nostre ragazze del centralino. Dove vivono i suoi figli? Allora, un figlio vive a Sydney in Australia. Sì. Ed è cittadino australiano, quindi sì, lui le sue imposte le paga lì adesso per il lavoro che fa. L'eventuale reddito che deriva da questo immobile che io praticamente gli vendo, gli dono, lui le tasse dove le paga? Allora, in sentiamo Australia, qual è la miglior cosa da fare, Domenico. Intanto o glielo vende o glielo dona questo immobile, sono due operazioni radicalmente diverse. Quindi quale sarebbe la cosa migliore per alleggerire quanto più possibile il peso fiscale su queste operazioni su Domenico e sui suoi figli? Avvocato Vedana, cosa suggerirebbe? Allora, ammetto che non ho capito se l'ascoltatore sta parlando di immobili che ha all'estero. No, sono in Italia. Sono in Italia, quindi immobili che si trovano in Italia, allora, se gli immobili vengono donati ai figli, sappiamo che in Italia abbiamo una franchigia sulle donazioni fatte a favore di figli e coniugi fino ad 1 milione di euro per figlio e per coniuge, nessuna imposta viene pagata, fatte salve le ipocatastali, che in questo caso saranno comunque in misura fissa. Però poi questa diventa una proprietà di questo ragazzo che vive a Sydney. Se questa proprietà generasse un reddito in Italia, lui le tasse dove le paga, visto che è anche cittadino australiano? Le tasse indirette le paga in Italia, intendiamoci, finché ci sarà, e pare che ci sarà anche dopo dicembre, l'IMU sulle seconde case, continuerà a pagare l'IMU sulla seconda casa, perché per il figlio australiano questa sarà una seconda o una terza casa. Gli eventuali redditi prodotti dagli immobili, se dovesse decidere di affittare questi immobili, saranno sottoposti alla tassazione prevista dall'Australia, dove uno dei figli abita. Mamma mia, che situazioni veramente al limite. Se tiene lui le sue case, Domenico. E altro tema sempre legato alla casa, ce lo sottopone Antonia. Devo dire che effettivamente il mattone è il grande, il tema più gettonato. Anche se è un altro caso quello di Antonia ancora. Benvenuta. Salve, io ho una domanda piccolina rispetto a tutto quello che avete detto. Una multiproprietà, ma 2 settimane in Spagna. Io non so bene neanche come sia la situazione fiscale, l'abbiamo acquistata a suo tempo, ricordo di essere passata dal console spagnolo. Però adesso io non so bene che cosa fare, mi fate venire un po' l'angoscia. No, vabbè, per due settimane cose. Di multiproprietà l'anno in Spagna, Antonia, magari c'è da sistemare un pochino la sua situazione, non credo che proprio sia, come dire, associabile la situazione di Antonia a quella di tanti altri, invece che queste situazioni in giro per il mondo se le vanno creando con grande facilità, insomma, e poi pensano a tutt'altro che a sanarle. Avvocato Vedano. Ma bisogna in primo luogo chiedere ad Antonia se il valore di questa multiproprietà da lei acquistata è inferiore ai 15.000 euro. Ah, perché c'è anche questa differenza. Se siamo sotto 15.000 euro non ci sono obblighi, a prescindere dal fatto che le azioni siano all'estero o siano degli immobili, non ci sono obblighi di compilare l'RV e quindi il problema non si pone alla radice. Ma allora mi scusi, anche per i lavoratori transfrontalieri, poi continuiamo a rispondere ad Antonia, se per esempio la pensione che viene accreditata su un conto all'estero non permette di generare all'anno un reddito superiore a questa cifra, non devono preoccuparsi questi lavoratori? Non devono preoccuparsi dell'RW. Ah. A partire dal 2013, con l'introduzione dell'IVAFE, che è la patrimoniale sui conti esteri, quindi la corrispondente del bollo che si paga anche in Italia, sì, sul, certo, conto corrente, sul deposito titoli, dovrebbero preoccuparsi di capire se devono o avrebbero dovuto versare l'IVAFE. Certo che però ci sono un po' troppi condizionali ancora in tutta questa situazione. Temo che anche l'anno prossimo faremo delle gran puntate e che troveremo altre questioni da chiarire, mannaggia. Quindi, per completare il discorso per la nostra ascoltatrice, deve fare una valutazione, un calcolo, cioè deve ricordarsi se questo investimento è stato più o meno superiore a 15.000 euro. Esatto, se siamo sotto i 15.000 euro può tendenzialmente, certo, stare tranquilla. Antonio, eventualmente ripeschi un po' i documenti che attestano questo investimento, ci scriva e magari le facciamo una piccola consulenza con l'avvocato Vedana, non le facciamo neanche spendere i soldi del commercialista, insomma, neanche, non vale neanche la candela veramente, si dice, qual è il proverbio. Vabbè, Davide. Buongiorno. Buongiorno. Lei sa il proverbio? Sì, il gioco non vale la candela. Bravo Davide, evviva! Libri a profusione per lei. Davide, ci racconti cosa le è successo? Senta, no, semplicemente io ho un padre 75enne che è uno dei famosi baby pensionati, quelli che sono nati in pensione con il mezzogiorno, eccetera. E comunque il frutto della sua pensione nel 2012 lo ha investito all'estero, con un regolare bonifico dalla parte della sua banca, quindi, sì, tutto assolutamente veloce, chiaro. Veloce Davide, che stiamo chiudendo. E l'investimento maturerà nel 2017, volevo sapere se deve dichiarare. Investimento mobiliare o immobiliare? Finanziario, certificato. Davide, grazie. Avvocato Vedana, in 10 secondi facciamo scrivere. No, deve preoccuparsi della voluntary. Deve, ecco, esatto, Davide, va da un commercialista. Deve sanare il 2012-2013, esatto, perché probabilmente non, ecco, ha messo nulla in regola. Le è andata anche bene che il governo ha riaperto i termini, così almeno non può trovare nessuna giustificazione. Avvocato Vedana, ma da qualche parte troviamo una guida che ci racconti, a parte l'instant book del Sole 24 Ore che parte da oggi, poi dai prossimi giorni c'è una serie di approfondimenti in tante puntate, l'Agenzia delle Entrate ci dà qualche informazione? L'Agenzia delle Entrate, c'è una sezione sul sito Voluntary.